البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. Buongiorno Palestina. Notizie della settimana. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una risoluzione dal titolo «Contro le politiche di annessione in Palestina», preparato dalla Commissione Consiliare Pace e Diritti, con un fattivo contributo di Assopace Palestina. Hanno votato a favore Sinistra Progetto Comune, Partito Democratico, Lista Nardella, Fratelli d'Italia. Hanno votato contro Lega e Forza Italia. Ottimo successo della serata sulla Palestina, coordinata da Lorenzo Rizzotti al Cinema Olimpia di Tavernelle in Val di Pesa. Su Change.org, petizione rivolta ad Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, intitolata «Chi demolisce una scuola, demolisce il futuro». Questo è il titolo della petizione, che è a favore della scuola di Gomme, di un villaggio beduino della Palestina occupata, scuola che il governo israeliano vorrebbe radere al suolo insieme al villaggio, che è abitato da 180 persone da oltre 60 anni. 21 marzo è giornata internazionale ONU contro razzismo e discriminazione razziale. 80 organizzazioni di tutta Europa hanno chiesto di inserire la lotta all'apartheid israeliano nelle mobilitazioni di questa giornata. A Gaza, un bulldozer israeliano scortato da un carro armato entra nel territorio di Gaza e porta via, come se fosse della immondizia, il corpo di un palestinese della Jihad precedentemente ucciso dai soldati. Da Gaza vengono sparati dei razzi. Israele svolge 27 attacchi aerei, 7 feriti palestinesi. A Tel Aviv appaiono giganteschi poster con il titolo «La pace è fatta solo con nemici sconfitti». E questi poster mostrano Mahmoud Abbas, presidente dell'autorità palestinese, e il leader di Hamas, Haniyeh, con gli occhi bendati e in ginocchio a chiedere pietà, su uno sfondo di distruzione della Palestina. Il sindaco di Tel Aviv ha ordinato la rimozione di questi poster, ma Gideon Levy e altri commentatori considerano che questi manifesti mostrano in realtà il vero spirito predominante oggi in Israele. Non c'è nessun interesse a un accordo di pace. Si vuole solo la sottomissione e l'umiliazione della popolazione palestinese. Questa è la verità al centro di tutti i cosiddetti colloqui di pace. Sono stati pubblicati da Invicta Palestina le registrazioni del convegno triestino «L'assenza della Palestina nei media». Ne parleremo in una prossima trasmissione in cui cercheremo di farvi ascoltare almeno l'intervento di Fausto Giannelli, avvocato di Giuristi Democratici di Modena. Per venire alla trasmissione di oggi, riportiamo l'audizione dell'ONG operanti in Palestina presso la Commissione Esteri della Camera, presieduta da Piero Fassino. Di questa lunga audizione riportiamo solamente alcune parti, in quanto altre, per motivi di qualità dell'audio, le abbiamo dovute omettere. Riguardo alla presidenza di Fassino, anche se nei toni appare equilibrato, lo considero nelle sue conclusioni veramente omissivo e di parte, e mi permetterò poi di dire perché. Procediamo dunque con l'audizione delle ONG alla Commissione Esteri della Camera. Introduce il presidente Piero Fassino. La dottoressa Silvia Stili dell'Associazione ONG Italiane, il dottor Paolo Pezzati di Oxfam, e abbiamo in collegamento da Gerusalemme Francesca Annetti di Educaid e Ilaria Masieri di Terre des Hommes. L'audizione costituisce un'occasione per una prima valutazione dell'impatto del cosiddetto piano per la pace per il Medio Oriente di Trump nella regione. Ricordo che in base al piano Israele potrebbe annettere la valle del Giordano, abitata da circa 80.000 palestinesi e 10.000 israeliani, e la totalità degli insediamenti dove vivono oltre 400.000 israeliani, quasi il 30% della Cisgiordania, cedendo in cambio il 14% di territorio lungo il deserto del Negev, non distante dalla striscia di Gaza. Uno Stato palestinese, secondo il piano di Trump, potrà nascere tra 4 anni, a condizioni alquanto stringenti in materia di Stato di diritto, rispetto ai diritti umani, programmi scolastici, rinuncia al sostegno finanziario da parte dell'autorità nazionale palestinese alle famiglie di terroristi uccisi e il totale disarmo di Hamas. Sembrerebbero sussistere anche delle limitazioni per ciò che riguarda la gestione dei confini e le risorse idriche. Questo è naturale e sempre in questo piano. Gerusalemme resterebbe nella sua interezza sotto l'esclusiva sovranità di Israele, anche se poi nel piano si fa riferimento a una, diciamo, ipotetica capitale dello Stato palestinese in un quartiere di Gerusalemme Est o nei pressi, in particolare nella zona di Abu Dis. Come era prevedibile, il presidente della ANP, Abu Mazen, ha rigettato il piano e ribadito l'impegno già ventilato più volte di abbandonare ogni cooperazione in materia di sicurezza fra la polizia palestinese e Israele. Nei termini di un rifiuto del piano si sono pronunciati la gran parte dei paesi arabi, in particolare i ministri degli esteri della Lega Araba, che si sono riuniti qualche settimana fa. Questo è il quadro, naturalmente è un quadro che si tratta di capire come evolverà. L'audizione che vogliamo svolgere oggi ci consentirà da un lato di conoscere evidentemente qual è l'attività e il lavoro delle ONG che sono presenti nell'area a sostegno del processo di pace e dello sviluppo e al tempo stesso anche di raccogliere le loro valutazioni su questo processo di pace che viene presentato, che naturalmente rappresenta il contesto in cui si svolgerà nei prossimi mesi gran parte, diciamo, della discussione dell'agenda politica sul Medio Oriente. Possiamo quindi cominciare dando la parola alla dottoressa Stilli. Siccome abbiamo quattro persone che devono intervenire, chiederei di essere concisi. Prego, la dottoressa Stilli. Sì, grazie prima di tutto a voi, concisissima, perché è bene che parlino le due colleghe che peraltro devono anche andare ad alcune riunioni e il collega presente nella sala. Allora, quindi per me la presentazione di chi incontrate oggi, noi siamo una delegazione della piattaforma delle ONG italiane che operano in Medio Oriente e nel Mediterraneo, è nata 26 anni fa, si chiamava Piattaforma Palestina, molti di voi che sono qui oggi ci conoscono già da allora, e ha 80 organizzazioni aderenti, organizzazioni di vario genere, ONG italiane, nessuna è mai stata espulsa da Israele, questo ci tengo a dirlo sicuramente. Di queste organizzazioni alcune hanno anche appartenenze religiose, soprattutto di area cattolica, Terra Santa, altre organizzazioni di riferimento della FOCSIV, la più parte laiche. Operiamo in programmi finanziati dall'Unione Europea, dalle agenzie internazionali umanitarie, dall'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo, in precedenza dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo. Sono programmi che vanno dall'umanitario anche allo sviluppo e che alcuni di questi sono anche programmi negli anni rivolti sia alla componente palestinese che alla componente israeliana del paese. Siamo impegnati nel dialogo e nei confronti per la pace da sempre. Siamo qui appunto, come è stato ben spiegato nell'introduzione, perché oggi stiamo parlando del cosiddetto piano Trump, che ovviamente a noi preoccupa fortemente. Sono stati compiuti passi unilaterali dall'amministratore statunitense senza precedenti che a nostro parere minano pericolosamente la soluzione di molte questioni legate allo status permanente come quello di Gerusalemme, di cui si è appena annunciato la definizione dei confini, il problema dell'acqua e il diritto al ritorno dei rifugiati. Dagli accordi di Oslo del 93-95 ad oggi purtroppo grandi passi avanti non sono stati fatti infatti, nonostante le speranze delle due parti che mirano e miravano e mirano, ci auguriamo ancora, al dialogo, fossero tante. In mezzo, come tutti sappiamo, poi c'è la questione legata alla costruzione della barriera di separazione, iniziata nel 2002, che oltrepassa per 85% la linea verde dell'armistizio, l'avanzata appunto dei coloni israeliani e quant'altro le colleghe e i colleghi diranno oggi. Alla fine dell'audizione vi presenteremo le nostre raccomandazioni e convinti sinceramente che è disponibili ad avviare poi approfondimenti e dialoghi insieme. Ve lo diciamo, noi informiamo di tutte le nostre azioni di advocacy il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ovviamente partecipiamo ai tavoli di programmazione delle iniziative e delle attività, qui ci rivolgiamo ovviamente al Parlamento per rivolgerci poi anche attraverso il Parlamento al Governo. Io mi fermo qua. Do la parola adesso al dottor Pezzati, rappresentante di Oxfam in Italia. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono Paolo Pezzati, sono il Policy Advisor per le crisi umanitarie, mi occupo essenzialmente delle crisi medio orientali e anche nordafricana, in Libia particolarmente. Oxfam è presente nei territori occupati dal 1950, ha un ufficio dal 1980 ed è presente sia in Gerusalemme Est, sia in Cisgiordania che a Gaza. Cercherò di recuperare il tempo, ho preparato delle slide per andare più velocemente. Per quanto riguarda la Cisgiordania, Oslo, gli accordi di Oslo ce la lasciano divisa in tre aree: l'area A, l'area B e l'area C. L'area A è quella dove l'autorità palestinese ha il massimo controllo, ma non totale, sia sul settore civile che di sicurezza. L'area B è l'area dove l'autorità palestinese ha il controllo civile, ma non sulla sicurezza che compete al governo israeliano, e l'area C dove Israele mantiene il pieno controllo civile della sicurezza. L'area C è il 60% della Cisgiordania. La storia della Cisgiordania è la storia di una lenta ma progressiva annessione di fatto, e proveremo poi a dire come questa progressiva annessione di fatto si è svolta. Tale annessione si è sviluppata violando, abbiamo già sentito anche negli interventi delle colleghe, violando la Convenzione di Ginevra, risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sentenze della Corte di Giustizia Internazionale. Diciamo che è stata una mossa a tenaglia che parte dal 67 e che vede intanto come strumenti principali gli investimenti per supportare le esigenze dei coloni, cioè costruendo nuove comunità, nuovi insediamenti, le infrastrutture, cioè reti elettriche, idriche, strade, di cui tra l'altro 35 chilometri sono totalmente interdette palestinesi, e sistemi di sicurezza. Cosa ha comportato questo? Che dal 93 ad oggi si è quadruplicato il numero dei coloni, è stato esteso alle colonie l'applicazione della legislazione interna israeliana, mentre i palestinesi sono tuttora sottoposti al diritto militare israeliano. Altra mossa riguarda quello della dichiarazione di aree definite o militari chiuse, o riserve naturali, o aree archeologiche. Proprio un mese fa il Ministro della Difesa ha annunciato 7 nuove riserve naturali e l'ampliamento di 12 già esistenti, tutte in area C. Una tale numero di migliaia di ettari così grande non era mai stato annunciato dal governo israeliano. E poi ci sono le demolizioni, che hanno un impatto devastante nella vita delle persone. È un trend che è di nuovo in crescita dal 2017. Decine di migliaia di persone hanno subito nel solo 2019 le conseguenze di demolizioni di cisterne, reti idriche, strade agricole, rifugi per animali, strutture commerciali. Dall'altra parte, l'Israeli Civil Administration dal 2009 al 2016 ha rilasciato solamente 66 permessi su una richiesta di 3.365, cioè meno del 2%. C'è inoltre una grave limitazione alla libertà di movimento attraverso delle barriere fisiche. Ci sono 92 checkpoint, ci sono stati durante il 2019 600 blocchi stradali, 708 chilometri di barriera di separazione, di cui abbiamo sentito l'85% nel territorio palestinese. Ci sono quindi gravissime conseguenze su istruzione, salute ed economia, in questo momento aggravate dal recente bando all'export su prodotti agricoli palestinesi, in un momento chiave per l'agricoltura palestinese, ovvero prima del Ramadan. Sono già 10 giorni e non sappiamo se questo bando all'export continuerà ancora a lungo. E poi c'è un altro punto, che c'è la violazione del principio di sovranità dei popoli sotto occupazione sulle risorse naturali dei territori occupati. Israele controlla l'80% delle risorse idriche, destinandone ai palestinesi solo il 20%. 600.000 coloni consumano 6 volte la quantità di acqua rispetto ai 3 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Per quanto riguarda la giustizia, è stato accennato anche dalla collega, ci sono 5.000 prigionieri politici nelle carceri israeliane, 180 sono minorenni e 26 hanno meno di 16 anni. Israele è l'unico paese che giudica i minori in prima istanza in tribunali militari. Quindi ecco questo il quadro che si pone nelle 3 zone dei territori occupati palestinesi alla vigilia della discussione sul Deal of the Century. Ma noi stiamo per uscire come Oxfam, tra l'altro, con un rapporto sulla crescita anche delle violenze da parte dei coloni nei confronti dei palestinesi, e vorrei proiettare un video di pochi secondi circa un'esperienza che ci è capitata proprio pochi giorni fa. Era l'inaugurazione di una serra dove proprio noi stavamo piantando insieme ai nostri partner palestinesi delle piante, inauguravamo questa zona verde, e la nostra organizzazione è stata attaccata da dei coloni che abitano lì vicino e sono scesi. È arrivata la polizia israeliana e ha allontanato i coloni, che hanno danneggiato tutte le macchine presenti. Questa era raccontata, chiaramente non fa vivere il momento invece che è stato possibile catturare attraverso i video, rappresenta poi la quotidianità, l'atmosfera che le persone che vivono in area C vivono quotidianamente. In 3 anni ci sono stati più di 650 attacchi nei confronti dei coloni nei confronti dei palestinesi, e alle proprietà private, alle persone, alle auto, alle moschee, alle chiese. Quindi diciamo la situazione sta da 2 anni a questa parte aumentando, si sta registrando un aumento delle violenze da parte dei coloni, che sentono un clima di impunità da un paio di anni a questa parte serpeggiare nei loro confronti. Sono stati più di 9.500 gli alberi di ulivo vandalizzati. E di fronte a tutto questo solamente il 5% dei palestinesi presentano denuncia alle autorità israeliane, perché dicono: come possiamo noi presentare denuncia quando il nostro avversario è il giudice stesso? E questo è un tema che ci parla anche proprio della giustizia, di come il tema dell'occupazione è vissuto a 360 gradi anche nell'esercizio della giustizia. Va bene. Grazie di queste vostre informazioni. Ovviamente questo è un documento che voi depositate, poi la Commissione Esteri valuterà come tenerne conto. Abras? Sì, per parlare di questo tema io riscontro una difficoltà oggettiva a cui dovremo prima o poi porre rimedio nelle discussioni specifiche della Commissione Esteri. Bisogna fare discussioni in cui entra il tema della geografia con una cartina davanti, altrimenti è difficile anche descrivere quello che sta accadendo. E se noi guardiamo la cartina dei territori occupati palestinesi in questo momento, a cosa sono ridotti? Qual è l'area su cui esercita un'effettiva autorità, l'autorità nazionale palestinese? Noi vediamo una sorta di arcipelago, si può rappresentare così. Non è un territorio continuo dove si ha una continuità funzionale, una effettiva capacità di esercizio del potere di uno Stato da parte delle autorità che lo esercitano, e nemmeno quello di una regione amministrativa. Ma abbiamo tante isole separate, decine di isole, stiamo parlando di decine di isole, separate completamente dalle altre, e devono attraversare dei confini che sono controllati da uno Stato che impone una sua legge, che è in contrasto con la legge locale e con la possibilità amministrativa. Cosa voglio dire con questo? Che l'accordo recente fra Netanyahu e Trump, lo chiama accordo del secolo, ma è un accordo che non prevede un pezzo di popolazione enorme che dovrebbe essere coinvolto. È un accordo fra due leader politici che hanno scelto sulla pelle di un'intera popolazione. Prevede il perpetuarsi di questo sistema, di questa geografia assurda, su cui non può sorgere alcuno Stato palestinese. Non può funzionare mai, non in quei termini. Non stanno proponendo uno Stato, una comunità, ma una dispersione di tante comunità, un limone spremuto che non ha più le risorse per poter funzionare. Quindi è foriero di altri 100 anni di guerra, un piano come quello che viene proposto. E perciò è in pericolo la pace in Medio Oriente, lo dobbiamo affermare con forza, oltre che essere in pericolo i diritti già conculcati della popolazione palestinese. E qua io vorrei fare una notazione polemica rispetto all'attenzione spasmodica che viene dedicata alle violazioni dei diritti umani, ad esempio in Egitto in questi giorni. Per carità, facciamo pure un richiamo importante ai doveri dello Stato egiziano. Però c'è una cosa molto più ingombrante come questa che avviene in Terra Santa, che sta aggravandosi sempre di più e sta diventando il grande problema del Medio Oriente, perché non può nascere nessuna situazione pacifica da una così potente mancanza di giustizia. Vorrei chiudere sulla questione del sionismo. Ovviamente quando una contrarietà al sionismo è una maschera per l'antisemitismo, è una cosa che deve far scattare tutti gli alert possibili e immaginabili, e quindi vanno smascherate queste cose e possibilmente combattute con forza. Però attenzione a non consentire una critica profonda al sionismo reale. Un tempo si parlava di socialismo e socialismo reale. In un certo senso il sionismo reale di questo periodo è una negazione di certe fasi del sionismo storico. È stato interamente egemonizzato da una destra di tipo nazionalista ottocentesco. Non è più un progetto evoluto e che si apre al XXI secolo. È sostenuto da un apparato di pubbliche relazioni del XXI secolo, ma è un progetto molto regressivo, etnicista. Tanto è vero che da parte di Israele c'è questa dichiarazione di Israele come Stato ebraico. E questa cosa è in contraddizione con un principio laico di contemperanza, di convivenza di più popoli, di più etnie all'interno di uno Stato. Quindi la critica al sionismo reale deve essere possibile. È una precondizione per poter ragionare laicamente del futuro di quella terra così importante per l'umanità e per tutti quanti. E questo è l'elemento che... Altri? Sì, va bene, possiamo chiudere la nostra discussione. Io ricordo... Sarebbe utile che anche si esaminasse da parte vostra questi documenti, che la Commissione Esteri nella 16ª legislatura condusse un'indagine conoscitiva sull'antisemitismo, producendo anche un corposo dossier che affronta anche le questioni del sionismo, eccetera, eccetera. Quindi è una documentazione che può essere utile per fare una discussione che sia vera e fondata. Adesso non abbiamo qui il tempo per avere questa discussione, ma io ricordo che il sionismo nasce come movimento di liberazione nazionale del popolo ebraico. Questo nasce così, e quindi tutta la storia, diciamo, del movimento sionista è una storia che accompagna, diciamo, la lunga battaglia che dalla fine dell'Ottocento fino al 1948 il popolo ebraico ha condotto per aver riconosciuto la possibilità di avere una identità statuale nella quale riconoscersi. Dopodiché sappiamo tutti che l'atto legislativo con cui si è definito recentemente Israele Stato ebraico è contestato anche dentro Israele, come è stato ricordato, quindi è evidente che poi nello sviluppo politico ci sono molte cose che vanno affrontate e vanno esaminate con cura. Il punto però che non può essere, diciamo, ignorato è che la contestazione, sia nella forma dell'antisemitismo, sia nella forma dell'antisionismo, è spesso la contestazione a Israele nel suo diritto a esistere. Questo è il punto. Perché Israele è l'unico Stato nei confronti del quale, quando si critica il governo di quel di Israele, in realtà immediatamente c'è un transfer che porta a criticare lo Stato in quanto tale. È questo che non funziona. Io non ho nessun dubbio a criticare Netanyahu, ma nel momento in cui critico Netanyahu so che critico un governo, così come ci può essere chi invece lo sostiene. Non trasferisco la critica a un governo sullo Stato, perché non lo facciamo per nessun'altra realtà statuale. Su Israele c'è continuamente questo equivoco, questo è un punto che bisogna avere chiaro. In ogni caso, non voglio entrare nel merito di molte questioni dotte, però una cosa è certa. Questa vicenda si trascina dal 1948 e sono quindi passati più di 70 anni. Per una lunga prima fase noi abbiamo avuto, tra il 1948 e il 1991, la conferenza di Madrid, una fase nella quale ciascuno negava il diritto dell'altro. Perché questa è la storia del 48-91. Tanto è vero che tra il 48 e il 91 abbiamo avuto 5 guerre, 48, 56, 67, 73, 82. Con Madrid si è svoltato. Da Madrid in avanti, ciascuno, fino a Oslo, ciascuno ha riconosciuto che il diritto dell'altro era legittimo come il proprio. E questa è stata la svolta. E si è negoziato un processo di pace fino ai colloqui di Oslo e agli accordi di Washington. Quel processo di pace era un processo di pace molto anomalo dal punto di vista di come si fanno le paci, se passatemi questa espressione, perché è un trattato di pace affidato nella sua implementazione al verificarsi progressivo di condizioni, no? Un processo di pace impostato come gradualmente, in cui l'acquisizione di ogni tappa crea le condizioni per passare alla tappa successiva, sul presupposto che il tempo lavorasse per la pace e il tempo determinasse il maturare di condizioni di fiducia che in partenza non erano tutte date. La verità è successo il contrario. Il passare del tempo non ha favorito il maturare di un processo graduale di maggiore fiducia, ma ha logorato il processo di pace e ha fatto crescere via via una condizione di logoramento del processo stesso e quindi di sfiducia. E guardate, non c'è nessuna pace che si fa se non c'è la fiducia, è il prerequisito di qualsiasi pace. Io ricordo che in uno dei tanti, mi occupo di questa cosa dal 1978, quindi una vita che mi occupo di questa vicenda, in uno dei tanti viaggi che feci lì, vi raccordo questo perché è significativo, il 2004, era la prima intifada, incontrai Nabil Shaat, che è la veramente palestinese, quello che ha fatto gli accordi di Oslo e di Washington, e gli dissi: vabbè, ma che cosa succede? E lui mi rispose con una frase secca ma chiara, disse che la mia generazione ha creduto in una pace e che i nostri figli non ci credono più. Chiaro? Frase terribile. E noi abbiamo avuto un continuo, progressivo logorarsi del processo, che tanto è vero che gli accordi di Washington ebbero difficoltà a essere implementati, si tornò a provare a fare un nuovo accordo nel 2002, Camp David, e non si riuscì. Si tentò con Annapolis 2007 e non si riuscì, e poi da Annapolis ad oggi si è bloccato tutto ed è una decalage continua e costante. Fino alla proposta di oggi di Trump, che ha le caratteristiche che ricordava Cabras, che è una proposta sostanzialmente di un Bantustan, di un territorio polverizzato, no? Secondo le caratteristiche che Cabras ricordava, e che difficilmente può essere riconosciuto come un'entità territoriale che ha una continuità tale da configurare la possibilità di implementare su uno Stato. Detto questo, che quindi io, come molti, penso che questo piano sia un piano irrealistico e non realizzabile, penso che i palestinesi sono fronte a un grandissimo dilemma, però, e non vorrei trovarmi nei loro panni. Dire di no, dopo aver detto tanti no precedenti, e la conseguenza di questo no, sperando domani di avere una pace migliore, che è una illusione. Da Oslo ad oggi tutte le proposte che sono venute in campo sono proposte che hanno via via ridotto la dimensione dello Stato palestinese. Non credo realistico pensare che questa tendenza si inverta. Quindi i palestinesi sono di fronte a un dilemma: o dire no, sapendo che il dire no probabilmente allontana ancora di più qualsiasi prospettiva di avere un proprio Stato, o dire di sì ad una proposta, pur negoziandola, cercando di migliorarla naturalmente, che però non placherà e non taciterà almeno un settore della società palestinese, e quindi non risolverà il problema dell'irredentismo palestinese. Quindi un dilemma drammatico in tutte e due. E questo dilemma può essere sciolto ancora in un modo ancora diverso, che io vedo avanzare, e cioè che ormai nei giovani palestinesi comincia a farsi strada un'idea molto più radicale. Vabbè, lasciamo perdere lo Stato palestinese. Accettiamo che tutto questo territorio diventi Stato israeliano e noi faremo la battaglia nello Stato israeliano per i nostri diritti. E non a caso chi sostiene questo evoca Mandela. È un no? È significativo. Quindi è una situazione drammatica, molto lontana, se posso permettervi, dalle proposte che voi avanzate nel vostro testo, che sono tutte in linea di principio giuste, ma non mi pare che ci sia nessuna condizione concreta politica oggi perché la comunità internazionale sia in grado di mettere in campo un processo che realizza quelle condizioni. Siamo in uno stadio molto più minimo, purtroppo, e quindi non ho la soluzione, ripeto. La dirigenza palestinese è in una condizione davvero drammatica perché si trova di fronte a un dilemma che in ogni caso non è soddisfacente, quale che sia la scelta che dovesse fare, e probabilmente, diciamo, non consente di acquisire quella stabilità e quella pace che sarebbe necessaria in quel territorio. Quindi la situazione è molto complicata, molto difficile. In ogni caso non bisogna rassegnarsi mai, quindi è giusto, e questo condivido, sollecitare la comunità internazionale ad assumersi le sue responsabilità e a provare ad agire. Però segnalo che una comunità internazionale che volesse promuovere e concorrere ad una soluzione di pace ha bisogno di un prerequisito, un grado di coesione e di unità. Nel momento in cui Trump fa quella proposta, che gran parte della comunità internazionale non condivide, ivi compresa l'Unione Europea, manca un requisito di coesione e di unità che consenta alla comunità internazionale di mettere in campo un processo tale da favorire la ripresa di un percorso di pace. Quindi a me pare che la situazione sia molto grave e francamente esposta a tantissimi altri pericoli. Vi ringrazio molto in ogni caso dell'audizione, e naturalmente sì, ricordo ai membri della Commissione che domani alle 14, no, alle 15 c'è l'audizione della coordinatrice nazionale della lotta contro l'antisemitismo, la professoressa Santerini, che è stata recentemente nominata. E alle 14 l'audizione del portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri. Grazie e la seduta è tolta. A seguito di questa trasmissione ho il dovere di spiegare perché in precedenza ho accusato Fassino di essere omissivo e di parte. Ed ecco i quattro motivi. Primo, Fassino afferma che il sionismo fu un movimento di liberazione nazionale del popolo ebraico. Fassino mostra di essere stato lui sionista, ma il movimento sionista non fu mai un movimento di massa. Il sionismo fu un movimento nazionalista minoritario e fortemente osteggiato tra i suoi oppositori. Possiamo citare Einstein, Isaac Asimov, quello della fantascienza, Hannah Arendt, Sigmund Freud, Erich Fromm, Marek Edelman, comandante durante la rivolta del ghetto di Varsavia, Noam Chomsky e tanti altri. Quindi fu invece il movimento sionista il movimento di una minoranza ben organizzata e finanziata e che come tale prevalse, così come con connotati assai diversi, erano prevalsi in Italia il fascismo, in Germania il nazismo, in Russia il bolscevismo, tutti questi movimenti minoritari, teniamo conto. La stragrande maggioranza degli ebrei non volle andare in Palestina, ma voleva andare invece negli Stati Uniti o in Canada. E infatti ci sono oggi più ebrei in USA che non in Israele. 2. Il diritto di Israele ad esistere, questione tirata fuori anche da Migliore nel suo intervento che non abbiamo riportato, che ha sostenuto anche l'equiparazione antisionismo-antisemitismo. Questa del diritto ad esistere è una questione del tutto inventata. Gli stati non esistono perché ne hanno diritto, ma perché ci sono, costituiscono una realtà di fatto. 3. Dice Fassino che gli arabi, dopo tutti i no che hanno detto nel passato, diranno no anche adesso al piano Trump. Fassino riprende una infelice frase di Abba Eban, che fu ministro degli esteri di Israele, e che una volta ebbe a dire: gli arabi non hanno mai perso un'occasione di perdere un'occasione. Sembra dunque che Fassino consideri anche lui che ai palestinesi siano state offerte nel passato chissà quali generose occasioni. Allora vorremmo dire a Fassino: uno entra in casa tua e si prende una stanza, poi ti chiede: sei contento? No, dice Fassino. Tu gli dici. E allora lui ti dice: ah, allora di stanze te ne prendo due. Sei contento ora? No! Ma allora Fassino, tu non sei mai contento. Questo è il modo generoso in cui Israele si è sempre comportata. 4. Fassino adombra alla fine, sembra con qualche come timore, l'idea che dei giovani palestinesi, vista la impraticabilità dello Stato di Palestina, pensino a un solo Stato con pari diritti di cittadinanza e adombrava Fassino addirittura qualche timore per l'agitarsi della figura di Mandela. Magari ciò fosse, ma occorre guardare in faccia la realtà. Quale è? Israele ha bisogno di uno Stato palestinese, cioè dei Bantustan, a cui attribuire una cittadinanza non israeliana, e magari nello stesso tempo privare della cittadinanza israeliana parte della popolazione non ebraica di Israele. È un tentativo che Israele sta già cercando di mettere in opera in alcune zone, cioè la popolazione palestinese non verrebbe trasferita fisicamente, non verrebbe sloggiata, però la sua cittadinanza verrebbe attribuita a un'altra entità, quella palestinese. In questo modo Israele si sbarazzerebbe dell'incomodo di cittadini arabi con diritto di voto al proprio interno e conserverebbe una riserva di manodopera a basso costo e con pochi diritti che una cittadinanza palestinese consentirebbe. Insomma, riesumazione del modello apartheid sudafricano. Con questo vi lasciamo, ricordandovi che prossimamente trasmetteremo la registrazione dell'avvocato Giannelli di Giuristi Democratici, e vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima puntata. بلد السلام أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام حلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا يا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا لنا قانون دولي يا قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا لا صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا محتل اطلع جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة عادية القدس إلنا يا أحرار بإرادة قوية وحدة وطنية صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو رح ترجع بلدي كلها رح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا